Ad alta voce. Andrea Pennacchi legge Il sergente nella neve di Mario Rigoni Sterna. Quarta puntata. Venne infine una mattina che i russi, prima dell'alba, incominciarono a sparare con i mortai e l'artiglieria sul caposaldo di Sarpi. Poi spararono a Cenci, allungarono il tiro verso le cucine e poi su al comando di compagnia dietro il nostro caposaldo. Pensavo che addosso a noi non potevano sparare perché eravamo troppo vicini a loro. Gli alpini, nella tana, si guardavano muti, seduti attorno alle stufe. L'elmetto calcato sulle orecchie, il fucile tra le ginocchia, le tasche e la cacciatora piene di bombe a mano sotto il camice bianco. Tentavo di scherzare, ma il sorriso si spegneva presto fra le barbe lunghe e sporche. Nessuno pensava se muoio, ma tutti sentivano un'angoscia che opprimeva e tutti pensavano quanti chilometri ci saranno per arrivare a casa. Le nostre artiglierie iniziarono a rispondere al fuoco dei russi e non ci sentivamo più soli. I proiettili passavano sopra le nostre teste e pareva che alzando una mano si potessero toccare. Andavano a scoppiare sul fiume davanti a noi, sulle postazioni dei russi e nel bosco di Roveri. Nei nostri ricoveri filtrava giù la sabbia fra i pali, dall'orlo delle trincee franava la neve. Un paio di colpi arrivarono corti sui nostri reticolati e vicino alle nostre tane. Lasciai fuori soltanto due vedette nelle postazioni coperte e il tenente mandò ad avvisare di allungare il tiro. Appena giorno, l'artiglieria smise di sparare e i primi scaglioni di russi incominciarono a passare il fiume. Mi aspettavo un attacco davanti a noi. Invece forzarono a sinistra, più in giù del caposaldo di Cenci. Forse, penetrati di là, avrebbero voluto entrare nella valletta che ci divideva a inoltrarsi poi verso le cucine e i comandi. Laggiù, ove attraversavano, il fiume era più largo. Nel mezzo c'era un'isoletta coperta di vegetazione e la riva dalla nostra parte era paludosa, tutta in senature e coperta da alte erbe secche e da cespugli. Non vi era nessuna traccia di lavoro umano. I russi uscirono improvvisamente dal bosco di querce e trovandosi in mezzo a quel biancore si saranno stupiti battendo le palpebre. Non gridarono, spararono delle brevi raffiche correndo curvi verso l'isolotto nel mezzo del fiume. Qualcuno tirava una slitta. Era una mattina limpida, alla luce nuova del sole, e guardavo i russi che correvano curvi sul fiume gelato. I mitragliatori di Cenci e le pesanti, in postazione da quelle parti, incominciarono a sparare. Qualcuno nel mezzo del fiume cadeva sulla neve. Raggiunsero l'isolotto, si fermarono un poco a prender fiato e ripresero a correre verso la nostra riva. Dei feriti ritornavano lentamente verso il bosco da dove erano usciti. Gli altri raggiunsero la nostra riva e si buttarono fra i cespugli e le insenature. Si defilarono così dal tiro dei mitragliatori di Cenci che avevano sparato fino ad allora, ma non dalle nostre armi. Stavo con il tenente a osservare i gruppetti immobili tra i cespugli. Il tenente mandò a prendere la pesante che era dalle parti del baffo. Postammo l'arma sotto i reticolati. Saranno 800 metri, disse il tenente. Puntai e sparai qualche caricatore. Ma il tiro non era efficace perché l'arma sulla neve era instabile. Ogni tanto si inceppava e in quel budello stretto non era agevole lavorarci attorno. Pure le pallottole laggiù arrivarono perché vedemmo i russi nascondersi tra i cespugli. Il tenente era serio, quasi triste. Passava il tempo e i russi non riprendevano l'azione. Ogni tanto qualcuno usciva e correva per pochi metri e tornava poi a nascondersi. Improvvisamente incominciarono a cadere laggiù delle bombe di mortaio. Scoppiavano così precise che parevano messe lì con le mani. Erano i mortai da 81 di Baroni e Baroni non sciupava né bombe né vino. Così finì il primo attacco russo. Non fu un vero e proprio attacco. Forse i russi credevano che fossimo molto più giù di morale e pensavano che, sapendoci accerchiati, avremmo abbandonato i caposaldi al primo accenno di attacco. Quel senso di apprensione e di tensione che era in noi non ci aveva ancora lasciato. Era come se un gran peso ci gravasse sulle spalle. Lo leggevo anche negli occhi degli alpini e vedevo la loro incertezza e il dubbio di essere abbandonati nella steppa. Non sentivamo più i comandi, i collegamenti, i magazzini, le retrovie, ma soltanto l'immensa distanza che ci separava da casa. E la sola realtà in quel deserto di neve erano i russi che stavano lì davanti a noi, pronti ad attaccarci. Sergen Maju, Garivarema Baita. Quelle parole erano dentro di me, facevano parte della mia responsabilità e cercavo di rincorarmi parlando di ragazze e di sbornie. Fra noi v'erano ancora di quelli che scrivevano a casa: «Sto bene, non preoccupatevi per me, sono il vostro...» Ma mi guardavano con occhi mesti e indicavano l'ovest e mi chiedevano: «Da che parte dovremmo andare nel caso di... Che cosa prenderemo con noi?» Pure nessuno aveva detto loro come stessero le cose e nessuno immaginava, ne sono sicuro, quello che ci avrebbe aspettato. Ma sentivamo quello che sente un animale quando fiuta l'agguato. Alla sera il tenente mi chiamò. «Abbiamo avuto l'ordine di ripiegare». Così mi disse: «Ripiegare. Siamo circondati. I carri armati russi sono arrivati al comando di corpo d'armata». Il tenente mi porse la borsa del tabacco, ma non ero capace di arrotolarmi una sigaretta e me la fece lui. Verso sera arrivò il rancio e il pane, come sempre era tutto gelato. I russi ripresero a sparare con l'artiglieria e i mortai. Incominciava a essere buio e tra poco sarebbe sorta la luna. Nelle nostre case in quel momento erano attorno alla tavola. Rimanevo poco ora nella tana. Ero sempre nelle trincee sulla scarpata del fiume con le bombe e il moschetto. Pensavo a tante cose. Rivivevo infinite cose e mi è caro il ricordo di quelle ore. C'era la guerra. Proprio la guerra più vera dove ero io, ma io non vivevo la guerra. Vivevo intensamente cose che sognavo, che ricordavo, che erano più vere della guerra. Il fiume era gelato, le stelle erano fredde, la neve era vetro che si rompeva sotto le scarpe, la morte fredda e verde aspettava sul fiume. Ma io avevo dentro di me un calore che scioglieva tutte queste cose. Con il tenente notai davanti a noi rumori e movimenti insoliti. Facemmo portare fuori il mitragliatore e postarla pesante fra le macerie di una casa un po' arretrata per aver maggior campo di tiro. Gli alpini, silenziosi, stavano nella trincea. Ora avrebbero attaccato proprio noi. Avrebbero funzionato le armi con quel freddo. Di là si sentiva rumore di motori. Poi ci fu un silenzio strano. Quel silenzio che precede qualcosa di grave. Solo le cose e l'ansia del momento c'erano. Si sentì la voce di uno che incitava e uscirono all'assalto. Salivano sulla scarpata del fiume, si sedevano sulla neve e poi scivolavano sulla riva. Le nostre armi aprirono il fuoco. Tirai un sospiro di sollievo, funzionavano. I mortai da 45 di Moreschi sparavano davanti ai nostri reticolati e le bombette scoppiavano con rumore strano e ridicolo. Quando sentii passare sopra le nostre teste le bombe dei mortai da 81 del sergente Baroni, tirai un altro sospiro di sollievo. Sentivo che Baroni guardava giù verso di noi dando i dati di tiro con calma ai suoi uomini e mi pareva che dicesse: «Sta tranquillo, sono qui anch'io». E Baroni non sciupava nemmeno parole. I russi correvano, si gettavano a terra, si rialzavano e riprendevano a correre verso di noi. Molti non si alzavano più. I feriti chiamavano ed urlavano, gli altri gridavano «Urrà! Urrà!» e venivano avanti. Ma non riuscivano ad arrivare sotto i nostri reticolati. Mi sentii sicuro, allora. Avrei potuto ancora vivere nella mia tana al caldo e leggere lettere azzurre. Non pensavo ai carri armati che già erano arrivati al comando di corpo d'armata, né quanti chilometri c'erano per arrivare a casa. Mi sentivo tranquillo e sparavo con il moschetto dall'orlo della trincea, mirando calmo a quelli che si avvicinavano di più. E allora incominciai a cantare in piemontese all'ombretta di un cespuglio, bella pastora che dormiva. Chizarri, l'attendente del tenente che mi stava a fianco, mi guardò sorpreso, smettendo di sparare. Poi ricominciò e si unì a cantare con me. Al chiarore della luna indovinai i visi degli alpini che si spianavano e sorridevano. Vedevo che sparavano calmi e l'alpino dalla barba secca e rada cambiava bestemmiando la canna arroventata del fucile mitragliatore e riprendeva con foga a sparare. I russi si convinsero subito che da noi era impossibile passare e si spostarono più a sinistra, riuscendo ad infiltrarsi nella valletta fra noi e Cenci. Si nascondevano tra i cespugli e le ombre. Era difficile scorgerli. Lì vi doveva essere un campo minato, ma nessuna mina scoppiò. Baroni spostò il tiro. Qualche alpino ritornò nella tana a prendere cartucce e bombe a mano, ma avevamo ormai esaurite le munizioni. Durante l'attacco, quando i russi erano giunti sotto i nostri reticolati, avevo gettato quasi una cassa di bombe a mano, ma poche scoppiavano. Sprofondavano nella neve senza rumore. Allora pensai che forse sarebbero scoppiate levando tutte e due le sicurezze prima di lanciarle e feci così, sebbene fosse pericoloso. Ritornò il silenzio. Tra noi e Cenci si sentiva qualche breve raffica di mitra. Sul fiume gelato vi erano dei feriti che si trascinavano gemendo. Sentivamo uno che rantolava e chiamava «Mamma! Mamma!» Dalla voce sembrava un ragazzo. Si muoveva un poco sulla neve e piangeva. «Proprio come uno di noi», disse un alpino. «Chiama mamma». La luna correva fra le nubi. Non c'erano più le cose, non c'erano più gli uomini, ma solo il lamento degli uomini. «Mamma, mamma», chiamava il ragazzo sul fiume e si trascinava lentamente, sempre più lentamente, sulla neve. Ma i russi ricominciano a uscire dal bosco di roveri. Salgono sulla scarpata e ridiscendono giù dal fiume. Sono più guardinghi di prima, non gridano, sembrano timidi. Riprendiamo a sparare, solo che questa volta non vengono per ammazzarci. Vogliono solo raccogliere i feriti rimasti sul fiume. Non sparo più allora. Grido, non sparate! Raccolgono i feriti, non sparate! Si stupirono i russi a non sentire più le pallottole che li cercavano. Si fermarono increduli, si alzarono in piedi, si guardarono attorno. Gridai, non sparate! Raccolsero in fretta i loro compagni e li caricarono sulle slitte. Correvano curvi, ogni tanto si alzavano e guardavano verso di noi. Li portarono sino alla scarpata e li trascinarono su nelle loro trincee. Sul fiume gelato la neve era tutta calpestata. Portarono via anche i morti, tranne quelli che erano sotto i nostri reticolati. Ora tutto era finalmente finito. Finito. Chizarri venne di corsa verso di me. Vieni. Vieni presto dal mio tenente, diceva. Sta male, ti vuole, vieni. Correva nella trincea davanti a me e lo sentivo singhiozzare. Cos'è? Ferito? Gridavo. No, corri, diceva Chizarri. Entrammo nella tana della squadra di Pintossi e il tenente Moscioni stava disteso sul pagliericcio. Al chiarore del lume ad olio lo vedevo pallido e rigido, stringeva i denti. Indossava il camice bianco sopra la divisa. Mi inginocchiai al suo fianco, gli presi una mano e strinsi forte. Aprì gli occhi. «Sto male, Rigoni?» disse. Parlava piano, in un soffio. Gli feci bere un po' di cognac che aveva a Chizzarri. Nella tana, tre alpini silenziosi guardavano, stringendo tra le mani la canna del fucile. «Non sono capace di rimettermi in piedi», riprese. «Prendi il comando del caposaldo. Sta attento che quando la luna va sotto le nubi, i russi passano il fiume. Non farmi portar via. Lasciami qui. Ho ancora la pistola». E cercava la fondina. Ero chino sopra di lui e non ero capace di parlare. «Sta attento. Sei tu, Rigoni. I russi passano il fiume. In caso di ripiegamento, lasciami qui. Ho ancora la pistola. Avrai ordini dal capitano. Non andartene prima». Era rigido e continuavo a stringergli la mano senza parlare. Ma poi riuscii a dirgli qualcosa. Mi alzai in piedi. «Prendete la barella e portatelo via», dissi rivolgendomi agli alpini. Non voleva il tenente e faceva cenno di no con la testa. «Ho ancora la pistola», diceva piano. Gli alpini non sapevano a chi obbedire. «Comando io ora qua. Andate, per piacere». E poi a Chizzarri: «Dagli tutto il cognac che c'è. Accompagnalo e lasciagli le cose più necessarie e ritornate subito». Più nessuno parlò. Le ombre si allungarono sulle pareti della tana. Chizzarri, in un angolo, frugava in uno zaino e singhiozzava. Il lume a olio rendeva la tana più raccolta. Sui pali di sostegno erano inchiodate cartoline con fidanzati, fiori e paesi fra le montagne. Dietro una vecchia busta che avevo in tasca scrissi dell'accaduto al capitano e mandai un alpino al comando di compagnia. «Digli che abbiamo bisogno urgente di munizioni». «Vai, Rigoni», mi sussurrò il tenente. «I russi passano il fiume». Ritornai fuori. Appoggiata alla trincea c'era la barella ancora macchiata del sangue di Marangoni. Si sparse la voce per il caposaldo che il tenente era andato via. Venivano da me i capi squadra a chiedere: «Che facciamo ora?» «Quello che avete fatto sino adesso», rispondevo. «State tranquilli, verrà qualche altro ufficiale». Non mi passò nemmeno per la testa di dire: «Non s'allontani nessuno», tanto ero sicuro che nessuno se ne sarebbe andato senza un ordine. Minelli mi disse che Lombardi era morto di schianto nella trincea, con una pallottola nella fronte, mentre sparava in piedi con il mitragliatore imbracciato. Ordinai di farlo portare fino alle cucine, poi avrebbe pensato il cappellano. Moreschi mi fece presente che non aveva più munizioni per i mortai. Il bafo era tranquillo. Dall'aggiù non vedevano nemmeno i russi venire all'attacco. Non spararono nemmeno un colpo. Feci portare il suo mitragliatore nel settore della squadra di Pintossi, che era il punto più esposto e che doveva essere perciò il più munito. La pesante non funzionava tanto bene e il rosso, capoarma, si era preso un calcio dal tenente perché non la curava. Ordinai di smontarla, pulirla, sparare qualche raffica ogni tanto e tenerle sotto un elmetto di brace. Ma anche la pesante era ormai senza munizioni. «Che cosa aveva il tenente?» mi chiedevano i capisquadra. «È stato preso dal freddo», rispondevo, «dal sonno e dalla fatica. Da tanti giorni dormiva poco e non riposava. Era impossibile che potesse resistere a lungo». «Vada a dormire», gli dicevo. «Riposi, vede, è tutto tranquillo ora». Ma non voleva. Ora le armi, ora le postazioni, ora gli uomini, ora la pattuglia russa. Non voleva. È caduto, sfinito come un mulo. «Era come essere di ghiaccio», mi disse poi in Italia. «Non sentivo più le gambe, le braccia, il corpo, non sentivo più niente. Mi pareva di essere solo testa e poco anche di questa. Era terribile». Il capitano mi mandò giù un biglietto. Scriveva che sarebbe venuto un altro ufficiale a prendere il comando del caposaldo e che mi avrebbe mandato le munizioni. Ricominciammo a sparare. I russi volevano passare il fiume a tutti i costi. Spararono addosso a noi anche con i mortai e me ne accorsi quando sentii sopra il mio capo uno schianto, qualcosa battermi sull'elmetto e sabbia e neve e fumo entrarmi negli occhi. Subito non mi resi conto che cosa fosse accaduto, ma poi sentii chiamare aiuto vicino a me. Un alpino della squadra di Pintossi aveva il braccio spezzato e la parte inferiore penzolava giù, come se non facesse più parte del corpo. Con uno spago che avevo in tasca, legai stretto sopra la ferita per arrestare il sangue che usciva a fiotto. Il mio braccio, diceva, e urlando si teneva con la mano sana il braccio penzolante. Sei fortunato, gli dicevo mentre legavo, è una cosa da poco e tra 15 giorni sarai a casa. Sì, chiedeva lui, andrò a casa. Sì, potevamo restare morti tutti e due. Ora vai giù alle cucine, non posso farti accompagnare, vai giù solo. C'è bisogno di gente qui, fa presto, dammi le tue cartucce. E gli vuotai le giberne. Si allontanò lagnandosi per il camminamento. Il mio braccio! E cercava di correre nel buio. Allora mi resi conto che una bomba era scoppiata tra noi due sopra le nostre teste. Il fucile dell'alpino era rotto lì a terra. Avevo le mani rosse di sangue e il camiciotto sporco di terra e di sangue. Dopo un poco ritornò il silenzio. Ma non ero tranquillo, perché un certo numero di russi erano riusciti ad infiltrarsi fra noi e Cenci. Ed erano pericolosi. Potevano aggirarci e penetrare nel caposaldo dalle spalle. Con un mitragliatore e qualche uomo mi portai più indietro a sinistra, verso Cenci. E provai paura e apprensione quando vidi che da quella parte i reticolati avevano dei varchi. Ma invece di venire da noi, i russi cercavano di entrare in profondità e sentimmo che sparavano verso il fosso anticarro all'imboccatura della valletta che portava le retrovie. Questa volta, pensavo, vanno a svegliare gli imboscati. Ma gli imboscati rimasero tranquilli ancora un altro giorno, perché la squadra esploratori della nostra compagnia, al comando del tenente Buogo, andò incontro ai russi. Erano in gamba gli esploratori, tutti dello stesso paese, Collio Valtrompia, e tutti parenti tra di loro, o perlomeno uno faceva l'amore con la sorella dell'altro. Avevano una parlata tutta particolare e gridavano sempre. A quel modo scesero incontro ai russi. E allora nella notte fredda, dopo una raffica di mitra russo, sentimmo Buogo che chiamava «Cenci! Cenci, tenente Cenci!» E Cenci dal suo caposaldo gridare «Buogo, di Buogo! Come si chiama la tua fidanzata?» E ripeteva «Come si chiama la tua fidanzata?» Buogo disse un nome. Mi misi a ridere, assieme agli altri che erano con me. Il nome di una donna, di una fidanzata, il nome italiano di una ragazza gridato così nella notte, mentre sparavano i mitra russi e i moschetti italiani. «Di Buogo, come si chiama la tua fidanzata? Buogo! Buogo, come si chiama?» E gli alpini ridevano. «Diavolo, chissà che bella ragazza era!» È morbida ed elegante. Altro non poteva essere la fidanzata di un tenente, e così pareva anche dal nome. Immaginavo i due tenenti a farsi le confidenze nella tana, guardando le fotografie. Ma un nome gridato così, nella notte. Avevo capito perché Cenci voleva sapere il nome della ragazza, e tutti quelli che avevano sentito ridevano. Anche i russi di certo dovevano averlo capito. Diavolo! Piantiamo qui tutto. Ci sono tante belle ragazze, vino buono, no, baroni? Loro hanno le cattiusce e le marusche e la vodka e i campi di girasole, noi le marie e le terese, vino e boschi d'abeti. Ridevo, ma gli angoli della bocca mi facevano male e impugnavo il mitragliatore. Sparavano laggiù tra i cespugli e sentivo chiaramente le voci degli esploratori gridare che il tenente Buogo era stato ferito ad una gamba e che lo portavano via. Gridavano nel loro gergo: «Sono qui, venite, ci sono anche donne!» Parevano una compagnia di 100 e forse erano 13. Gettavano bombe a mano e poi urlavano: «Li abbiamo presi! Vi sono due donne, venite!» Bestemmiavano e battevano i cespugli fra noi e Cenci. D'un tratto mi accorsi che incominciava l'alba. Una lepre mi passò davanti correndo e andò a nascondersi tra le erbe secche della riva. Un portaordini venne ad avvisarmi che il plotone Arditi del Morbegno sarebbe venuto in nostro aiuto per eliminare quei russi che ancora erano rimasti fra noi e Cenci. Mi raccontò che i nostri esploratori avevano preso poco prima due donne russe che erano venute all'assalto in pantaloni e mitra. Poco dopo sentii gli arditi del battaglione Morbegno. Che lingere, questi contrabbandieri comaschi. Si chiamavano tra loro, facevano chiasso, sparavano, bestemmiavano, quasi come i nostri esploratori. «Le qua! Le qua!» gridavano e gettavano bombe a mano. Incominciò a venir su il sole dietro il bosco di Roveri. Tante mattine l'avevo visto sorgere. E allora le nostre tane e le loro fumavano tranquille come i camini di un villaggio tra le Alpi o tra la steppa. E tutto era tranquillo. E la neve sul fiume intatta, senza macchie di sangue o tracce di uomini. Andrea Pennacchi ha letto Il sergente nella neve di Mario Rigoni Sterna. A cura di Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.